Incontri di Gianfranco Fabi. La voce di Peter Gabriel, iniziamo l'incontro di oggi. Buonasera a quanti ci ascoltano, buonasera a Stefano Granata. Buonasera. Peter Gabriel, una voce inconfondibile, un mito della canzone pop, rock, moderna, una persona impegnata peraltro nel sociale, tra l'altro ha partecipato proprio nei giorni scorsi a una una presa di solidarietà verso le popolazioni della Sardegna, e tra l'altro mi pare cittadino onorario di Arzachena, quindi ama la Sardegna. Perché Peter Gabriel? Peter Gabriel perché intanto mi ha accompagnato dall'adolescenza, quando leader dei Genesis iniziò la sua avventura, ed è il simbolo di una musica che ha saputo cambiare nei tempi, che non si è fermata. Peter Gabriel è stato un grande innovatore, poi è una persona di grande respiro culturale, si è affacciato al mondo dell'Africa, ad altri mondi, introducendo nella musica elementi che allora erano sconosciuti, non fermandosi a quella che è stata la sua genesi, che è il rock. Quindi l'innovazione, la capacità di trovare dei percorsi nuovi. Stefano Granata è presidente delle cooperative e consorzi CGM. Che cos'è? La CGM è la più grande rete di imprese sociali italiana e anche d'Europa. Ha una storia ormai quasi trentennale. Il suo nome, Consorzio Gino Mattarelli, nasce dal fondatore, da questo politico impegnato allora nella Democrazia Cristiana, che lavorava nel mondo della cooperazione sociale e che ragionò ed intuì la possibilità che lavorare in rete era un valore aggiunto anche per il mondo allora nascente della cooperazione sociale. Dico oggi è la più grande rete di imprese sociali in Italia, raccoglie quasi un migliaio di cooperative sociali, un'ottantina di consorzi, tante partecipazioni, e vede impegnato a lavorare quasi 45.000 persone retribuite in tutta Italia, con servizi che vengono offerti a quasi 800.000 cittadini. Ecco, cosa vuol dire cooperativa sociale? Che differenza c'è tra la cooperativa normale, diciamo? Ma la cooperativa sociale intanto ha come una finalità proprio di legge quella di lavorare per il benessere delle comunità, ma con la particolarità di rivolgersi alle categorie fragili della popolazione. Quindi offre servizi alle persone che si trovano in stato di bisogno, ma soprattutto dà anche la possibilità di inserire al lavoro tutte quelle categorie che generalmente sono o espulse o emarginate nel mondo del lavoro. Ecco, ma quindi lavorano nell'ambito del non profit? Possono essere definite delle aziende non profit? Sono delle aziende non profit, nel senso che di legge sono onlus, però di fatto hanno tutti i carismi dell'impresa. L'elemento della cooperativa sociale è che i soci partecipano alla vita dell'impresa, il carattere di democraticità è un carattere distintivo, nel senso che nella cooperativa sociale, al di là delle quote di partecipazione, una testa, un voto, quindi diciamo che è un universo, un modello economico di partecipazione molto spinto. Ecco, voi come consorzio quindi raggruppate le cooperative sociali che trovano in voi dei servizi comuni, una rappresentanza comune. Sì, più che una rappresentanza è proprio una rete imprenditoriale, nel senso che noi valorizziamo i territori, siamo presenti su tutto il territorio nazionale, quindi siamo da Aosta a Trapani, da Bolzano a Reggio Calabria, disposti su tutto il territorio nazionale, dove insieme si costruisce una visione, un modello di intervento imprenditoriale. Non è semplice rappresentanza, perché per la rappresentanza anche noi ci affiliamo al mondo della rappresentanza della cooperazione sociale, in particolare Confcooperative, Fede e Solidarietà, però diciamo che il modello imprenditoriale che CGM diffonde nei territori, che è fatto di cosa? Di far crescere ed emergere nei territori le esperienze, di portarle a sistema in modo tale che diventino un patrimonio comune per tutto il paese. Come si diventa presidente della CGM? Qual è stato il suo percorso professionale, di carriera, direi, ma forse soprattutto umano? Ma il mio percorso parte da lontano, nel senso che ero ancora studente universitario e facevo volontariato nel mio quartiere. Io abito, sono di Milano, sono del Giambellino. Da lì sono stato portato a conoscenza di alcune cooperative sociali che lavoravano su quel territorio. Ho iniziato ancora nel periodo universitario a lavorarci come operatore. E via via è un luogo nel quale ho creduto, mi sono giocato, quindi sono diventato socio, ho ricoperto subito i ruoli di responsabilità, sono diventato presidente di questa cooperativa Spazio Aperto Servizi, che peraltro colgo l'occasione di dire che ha ricevuto benemeranza civica proprio in occasione del 7 di dicembre di quest'anno, quindi al Comune di Milano, quindi Spazio Aperto Servizi, diciamo, gli è stato assegnato l'Ambrogino d'Oro, quindi un po' di orgoglio in questo ce l'ho della mia storia. Sono stato presidente 10 anni di questa cooperativa Complimenti. e dopodiché sono diventato presidente del Consorzio delle Cooperative Milanesi e dopo 8 anni di presidenza ricopro ora questo ruolo da qualche mese di CGM. Anche a Milano, quindi, c'è una presenza significativa di queste cooperative. Ecco, siamo in un momento particolare di crisi economica che ormai da 5-6 anni coinvolge non solo l'Italia, ma un po' tutto il sistema globale. È una crisi economica che si riflette anche nelle difficoltà della spesa pubblica, degli interventi pubblici. Come si è collocato il sistema delle cooperative sociali in questa realtà? Ma intanto bisogna riportare un dato, che dal 2001 a oggi il tasso di crescita della cooperazione sociale non ha avuto uguali in Italia. C'è un incremento del 28% dell'occupazione, che è un dato fantascientifico se guardiamo la situazione italiana. Ed è un'occupazione reale, Reale. pagata, quindi di non profit. Chi è occupato nelle cooperative sociali riceve un salario, uno Riceve un stipendio. salario e oltretutto non con forme di occupazione precaria, perché generalmente il 90% sono, facciamo riferimento a un contratto nazionale, sono tempi indeterminati, quindi stiamo parlando di occupazione stabile, non precaria. È anche vero che oggi anche noi, che siamo stati anticiclici rispetto alla crisi, ci affacciamo a un periodo che ovviamente sarà difficile, in particolare per come ricordava lei, rispetto alle risorse dell'ente pubblico che andando a diminuire rimetto in discussione un sistema di welfare italiano che è drammaticamente in crisi. Ecco, il sistema di welfare, come può intervenire su questo fronte, proprio in questo welfare in crisi, il sistema della cooperazione sociale? Noi nasciamo con la cooperazione sociale, nasce con un'idea di rottura ai tempi, alla fine degli anni 70, rispetto a un modello pesante pubblico. Di fatto, molta esternalizzazione dei servizi sociali pubblici sono stati dati alle cooperative sociali, che hanno saputo innovarlo, renderlo più flessibile, più adatto ai bisogni delle persone. Io credo che siamo in una fase dove ci è chiesto una nuova discontinuità. Non possiamo più pensare di vivere attaccati alla chiglia della nave pubblica, ma dobbiamo andare a leggere i bisogni che i cittadini oggi propongono e che non possono essere più mediati, diciamo, dal sistema pubblico perché non ha più le risorse per farlo. Quindi saper leggere i nuovi bisogni, saper costruire aggregando le risorse dei territori, insieme al profit, insieme a altre istituzioni, alla finanza, delle risposte complesse dove noi possiamo essere dei perni, dei motori, perché siamo sui territori e conosciamo i bisogni delle persone. Ecco, mobilitando quindi risorse private da una parte e il volontariato dall'altra, quindi integrando un po' in questa visione anche la possibilità di, appunto, non solo di essere non profit, ma anche di valorizzare le forme di lavoro volontario. Ma assolutamente, teniamo presente che siamo in una fase dove costruire dei luoghi di visione è molto complicato. C'è un luogo deputato alla costruzione della visione che è la politica, però vediamo tutti che in questo momento qualche difficoltà la esprime e non ci sembra questo momento un luogo pronto ad affrontare un nuovo disegno. Ci proponiamo questo, cioè creare dei luoghi all'interno delle comunità dove queste visioni dal basso possono essere Ecco, se ricostruite. dovesse dare un esempio, portare una testimonianza, non per privilegiare un'esperienza rispetto ad altre, che cooperativa porterebbe? Che esempio porterebbe? Prendo un esempio di una città che è del sud, quindi Matera, che non sembra essere un luogo di particolare produzione, però ad esempio a Matera i nostri consorzi e le nostre cooperative hanno strutturato un sistema che oltre a produrre energia pulita e meno costosa per la città, tutto risparmio sul risparmio energetico che riesco ad accumulare viene venduto in ore di assistenza domiciliare o di servizi agli anziani, che che può usufruire, possono usufruire i cittadini. Quindi da una parte i cittadini diventano padroni della loro energia, il risparmio consentito gli consente di convertirlo in servizi. Questo per dare un esempio micro. Ovvio che questo lo fa insieme ad altri soggetti, non da soli. Quindi con la capacità di mobilitare delle risorse, delle opportunità e anche di collegarsi ad altri soggetti sul territorio, privati o pubblici che siano. Esatto. Ecco, in questa prospettiva pensa che ci sia una possibilità ulteriore per le cooperative sociali? Mi risponda solo di sì e poi dopo ci risentiamo nella seconda parte del programma. Non posso che confermare. Ancora con la musica molto moderna di Peter Gabriel, riprendiamo l'incontro di oggi con Stefano Granata, che è qua con noi. Stefano Granata, milanese di nascita, presidente del consorzio del gruppo cooperativo CGM, gruppo cooperativo che riunisce appunto una serie di strutture di cooperative sociali che intervengono soprattutto nel campo dell'assistenza, dell'aiuto agli anziani, dei servizi domiciliari, dell'accoglienza e del supporto alle persone disabili e così via. Cooperative sociali che in questo periodo sono cresciute, abbiamo visto nella prima parte, come attività e anche come occupazione, ma sono di fronte anch'esse a dei problemi legati alla crisi economica, alla crisi dei conti pubblici, alla crisi complessiva anche del welfare, alla necessità di ridisegnare un po' il welfare in Italia. Allora, Stefano Granata, come le cooperative sociali possono essere protagoniste di un welfare sostenibile? Intanto guardando cosa succede nelle nostre città, nelle nostre comunità, oggi la scala dei bisogni è stata rivista, la crisi l'ha profondamente rimessa in discussione. Siamo passati una fase dove tutti i bisogni erano legittimi e tutti sembravano avere pari importanza. Oggi il tema del lavoro, il tema dell'abitare, il tema dell'ambiente, delle istruzioni hanno riassunto, e questo forse grazie alla crisi, mi viene da dire, non è stata proprio maledetta da questo punto di vista la crisi, ridando valore ad alcuni bisogni. È chiaro che però su questi bisogni non può essere né il pubblico da solo, intendo nel senso dello certo. Stato, né il singolo cittadino che può far fronte. Degli esempi concreti, pensate al tema dell'ambiente, alcuni dati riportano appunto che a Genova sono stati chiusi più di 30.000 contratti energetici, ma non perché si è passata la concorrenza, ma perché non c'era la possibilità di dissolvere da parte dei cittadini a questi contratti, quindi ritornando alla legna, alla stufetta, piuttosto che a tutto il tema drammatico della sanità, dove una risposta pubblica sappiamo che non arriva a tutti i cittadini e quindi il cittadino è costretto a rivolgersi a una sanità privata che purtroppo non è sempre sostenibile. Il vero problema di questo paese è che c'è tutta questa fascia grigia della popolazione che non possiamo permetterci che rientri nella soglia di povertà. Quindi diciamo che il nostro impegno è per poter dare risposte e costruire insieme a questa fascia dei cittadini la possibilità di rimanere a galla. Con un welfare che non è solo un'assistenza agli anziani, un'assistenza ai malati, ma è anche una visione sociale, anche il tema dell'occupazione è in primo piano. Ecco, voi avete preso un'iniziativa creando delle aziende che avete chiamato ibride. In cosa consiste? Sì. Nel senso che sono forme imprenditoriali che necessariamente non siano forzatamente cooperative sociali, ma che da queste, cioè dalle nostre cooperative sociali, sono promosse. Sono forme giuridiche delle più disparate, si va dall'SPA, l'SRL, sempre in forma di impresa sociale, ma che permettono a cittadini, investitori, a società profit di costruire dei progetti a partecipazione comune dove ci sono capitali sia nostri ma anche di altri soggetti investitori rispetto a progetti allargati. Pensiamo al tema dell'housing sociale, ci sono tante iniziative di questo genere che stanno nascendo principalmente nelle città, dove l'obiettivo qual è? Costruire insieme ai cittadini delle proposte, in questo caso abitative, sostenibili a prezzi sia di locazione che di acquisto, che siano sostenibili dai cittadini. Lo stesso discorso riguarda per l'energia, l'accesso, la costruzione di centrali biomasse, che è un progetto che stiamo portando avanti in tutta Italia, partecipazione con aziende profit e partecipazione ai cittadini, dove in basso impatto ambientale, il costo di energia più bassa e la possibilità di alimentare servizi che altrimenti non potrebbero essere sostenuti diversamente. Quindi mobilitare delle risorse esistenti all'interno della società, risorse finanziarie ma anche risorse umane, e cercare di sfruttare le opportunità andando un po' oltre la logica stretta del mercato. Assolutamente questo, ma pensate anche alla leva finanziaria. Il mondo della finanza è visto come il grande motivatore del dissesto dei nostri tempi, ma io credo che in particolare in Italia ci sia già una disponibilità e orientamento al risparmio. Noi siamo stati protagonisti di prima social bond in Italia con UbiBanca, sappiamo che Banca Prossima, che è una banca dedicata di Banca Intesa, si sta muovendo in questo senso, dove ai cittadini viene chiesto di porre in queste obbligazioni, che possiamo definire o social bond, obbligazioni solidali, dove possono porre i loro risparmi, venire remunerati i loro risparmi, sapendo che tutto questo denaro verrà investito in progetti di sviluppo territoriale, che poi sfoceranno in servizi, in attività professionale, in occupazione lavorativa, tutte dedicate al proprio territorio. Quindi uno investe, viene remunerato del proprio capitale, sapendo che questo è finalizzato a... Magari accetta una remunerazione un po' inferiore a quella, certo, a quella di mercato, però sa che questi soldi vanno a fin di bene, cioè sono destinati poi appunto ad opere che moltiplicano non solo un rendimento finanziario, ma anche un rendimento a livello di crescita sociale. Assolutamente, anche perché bisogna riportare un dato che è emblematico: il tasso di default delle nostre imprese è assolutamente più basso, infinitesimamente più basso di quello delle imprese, diciamo, profit. Quindi anche perché hanno una responsabilità sociale intrisa proprio nel fatto costitutivo. Assolutamente, perché da sempre, dal momento della Costituzione, siamo abituati a rendicontare. In più abbiamo questo assioma che tutto ciò che noi assorbiamo dalla comunità, tutto restituiamo, anche in termini di surplus economici. Come si muovono i giovani di fronte a realtà come le vostre? C'è interesse, c'è attenzione, c'è partecipazione? Ecco, devo dire che in questa fase è forse il momento più delicato della nostra storia. Storicamente le cooperative sociali sono stati grandi bacini per i giovani. Cioè, un giovane usciva dall'università, da un percorso di studi, voleva giocarsi anche su un modello economico diverso, era una sfida la cooperativa sociale. Io vengo da una generazione dove a 30 anni si poteva già diventare presidente di una cooperativa, essere un manager della cooperativa. Oggi è molto più complesso, siamo più strutturati e c'è un percorso molto più lungo. Dobbiamo reinventarci dei luoghi però dove i giovani possono giocare la loro partita e tornare attrattivi. Ecco, ma si possono realizzare delle start-up anche nel sistema cooperativo, cioè nel cooperativa non solo si entra, ma si possono anche creare delle nuove cooperative. È complicato? No, non è complicato. Tra l'altro noi prevediamo, perché nei consorzi, nelle realtà aggregative di territorio, sono presenti degli incubatori di impresa. Anche se io credo in questa fase dobbiamo essere attenti e capaci di andare a leggere all'interno delle realtà, di comunità, delle città, dei luoghi che oggi, e parlo degli hub, parlo di tutti questi processi più tipici e frequentati dai giovani, di fascino anche europeo, perché noi dobbiamo per forza ragionare in una logica europea, dove i giovani sono più portati a giocare la loro creatività. Cosa possiamo offrire noi? Le nostre infrastrutture, cioè saper leggere ciò che lì è innovativo e creativo e riportarlo all'interno delle nostre organizzazioni. Ecco, in Italia c'è una legge sulle cooperative sociali, però c'è sempre qualcosa che può essere migliorato sotto la prospettiva proprio delle garanzie giuridiche, delle potenzialità anche del sistema amministrativo. Come vede, quali cose chiederebbe al sistema politico? Ma devo dire che la legge sulla cooperazione sociale in particolare è una legge di valore, nel senso che è stato costruito un vestito veramente di classe, devo dire, una delle poche realtà giuridiche in Italia funzionanti. Ecco, latita un po' invece la legge sull'impresa sociale, che è nata molto dopo. Non ha costruito in esito come la cooperazione sociale, che vestiva un movimento che esisteva da 20 anni. Ora, per la necessità che dicevo prima di aprire anche ad altri soggetti che non nascono solo la cooperazione sociale, andrebbe completato il panorama, andrebbe rivisto. Il contesto di oggi è diverso di quello di 20 anni fa, è evidente, e io credo che il più grande aiuto che possa venire dalla legislazione è di far sì che ci sia una tutela, che ciò che è sociale in Italia rimanga sociale veramente e non si offra speculazione, ma dall'altro però che si possano aprire i cancelli e chiunque possa veramente entrare in questa splendida avventura che è quella dell'impresa sociale. Ecco, abbiamo iniziato parlando di innovazione. Innovazione, cosa vuol dire innovazione per una struttura come quella delle cooperative, che sembra una struttura abbastanza tradizionale? Ma ci sono due tipi di innovazione. Sicuramente noi abbiamo bisogno di innovarci dal punto di vista organizzativo. Introdurre tecnologia all'interno del nostro sistema operativo, pensate anche nei più banali servizi di assistenza, pensate al sistema assistenza domiciliare, pensate alle case di riposo, pensate agli interventi delle case protette, pensate all'accoglienza agli stranieri. In questi anni noi abbiamo badato molto all'efficacia. Credo che in Italia sull'efficacia di intervento nessuno possa dubitare della bontà del lavoro delle cooperative sociali. Dobbiamo migliorare sicuramente il lato dell'efficienza. E la quindi tecnologia, anche sul fronte della preparazione, della formazione delle risorse umane. Assolutamente. In questa prospettiva quali sono gli obiettivi, se possono esserci, per il prossimo anno, per i prossimi anni? Ma sicuramente quello di costruire delle infrastrutture che rimettano a sistema i beni comuni della società. Parlavo prima della casa, dell'abitare, dell'ambiente, dove le cooperative sociali e le imprese sociali possono rimettere in moto tutte delle istanze, anche collettive, non più solo individuali, e ricostruire dei luoghi di partecipazione dove il cittadino torna protagonista della sua vita, ma lo fa anche con la gratifica di vedere esaurire lì i suoi bisogni. Quindi guardare con un po' di speranza, di fiducia, per non dire di ottimismo, al futuro, sapendo che ci sono dei luoghi in cui ci si può esprimere, si può trovare degli appoggi, si possono trovare anche, se non delle soluzioni, comunque delle prospettive in cui inserirsi, in cui avere degli aiuti e avere una società un po' più solidale. Penso che i due termini che si possono utilizzare in questo momento, che ci vuole coraggio ed entusiasmo. Coraggio e entusiasmo, grazie. Mi sembra che Stefano Gradata lo dimostra del suo impegno di presidente del gruppo cooperativo CGM. Lo ringraziamo per essere stato con noi questa sera. Grazie a quanti ci hanno ascoltato. Ringrazio anche Fabio Cantadori in regia, Guido Scotti e Luca Cremonese in redazione. Vi ricordo che questo programma, come gli altri programmi di Radio 24, può essere riascoltato dal sito www.radio24.it. Grazie e buona serata.